Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ma che schifo! Vergognatevi, vergognatevi! Guarda, io merda, quanto merda che c'è qua dentro! Che schifo! Gente schifosa! Servi! Maledetti! No, care ascoltatrici, cari ascoltatori, non siamo né a Istanbul né in situazioni di questo tipo, siamo in Parlamento, il nostro Parlamento italiano, dal clima piuttosto agitato, come avete sentito dalla voce, dalle parole di una senatrice del Movimento 5 Stelle, agitato, dicevo, dal voto contrario del Senato oggi all'uso delle intercettazioni nel processo Rubiter alle cosiddette olgettine tra Berlusconi e le olgettine. Questo era il clima di cui parleremo poi, fra le altre cose, qui a Effetto Notte. Questo è un tema sul quale, tra i tanti, sul quale potete scrivere le vostre riflessioni, i vostri messaggi, come sempre attraverso due canali privilegiati per voi, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per i messaggi e per i WhatsApp, che è il 349-238-6666, 349-238-6666. Questa è una delle notizie, dicevo, poi purtroppo ancora prosegue a ritmo veramente impressionante la repressione che continua in Turchia dopo il fallito golpe. Sono state chiuse fra l'altro 24 tra radio e TV, il rientro in Italia dei cinque connazionali morti nella strage di Nizza, e poi anche per quanto riguarda il terrorismo arrivano notizie davvero poco rassicuranti, nel senso che anche l'inviato speciale americano per la coalizione anti-ISIS ha detto: nessuno può dire che questi attacchi cesseranno come quello di Nizza, sfortunatamente penso che, a proposito di lupi solitari, ne avremo altri di questi attacchi. Insomma, su questi temi e molti altri poi vi racconterò, approfondiremo anche con gli ospiti. Dovremo anche cercare di raggiungere la console italiana a Istanbul per capire la situazione anche da un punto di vista di un console, di una straniera quale lei, italiana. Ma innanzitutto, come sempre, il riassunto della giornata. Turchia, proseguono le epurazioni di massa, arrestato anche il rettore dell'università di Ankara. La cancelliera Merkel commenta: una beffa allo stato di diritto e le donne turche temono l'obbligo del velo. La strage di Nizza, sono rientrate a Milano le salme degli italiani, ad accoglierle anche il capo dello Stato Mattarella. Il processo Rubiter, il Senato vota no all'uso delle telefonate di Berlusconi alle olgettine. A Palazzo Madama scoppia lo scontro tra il Movimento 5 Stelle e PD. Stati Uniti, Trump trionfa alla convention repubblicana, un grande onore, dice, non vi deluderò. Ricucci torna in carcere, le accuse sono fatture false per 1 milione. Vaccini, l'ordine dei medici avverte, chi li sconsiglia rischia la radiazione. Doping, positiva la velista Caputo, era qualificata a Rio, l'azzurra sospesa dal Tribunale Nazionale Antidoping, al suo posto partirà Elena Berta. Partiamo quindi ovviamente dalla Turchia, dove a 5 giorni dal colpo di Stato fallito prosegue l'opera di durissima repressione del presidente Erdogan. Non si fermano arresti, epurazioni di massa, si parla ormai di decine di migliaia di persone. Anche il rettore dell'università di Ankara è stato arrestato e almeno 24 sono tra radio e TV chiuse perché ritenute vicine al predicatore Gulen, divieto di espatrio poi per i docenti universitari. In piazza Taksim appare un maxi striscione che promette l'impiccagione dell'oppositore Gulen, per l'appunto ritenuto mente del golpe militare. E in questo clima repressivo le donne turche a temere che possa essere imposto l'obbligo del velo. Tra poco, vi dicevo, ci colleghiamo con Istanbul e poi cerchiamo anche di raggiungere, se possibile, la console italiana. Nel frattempo sono sempre più preoccupate le reazioni internazionali anche sul fronte economico. L'agenzia Standard & Poor's taglia a BB da BB+ il rating della Turchia. La situazione del paese mette a rischio gli investimenti, la crescita economica e i flussi di capitale in arrivo. E sono sempre di più le reazioni che arrivano dall'estero in merito alla situazione turca. A esprimere subito grande preoccupazione la Germania. Le misure adottate dal governo turco dopo il fallito colpo di Stato sono contrarie allo Stato di diritto, ha detto il portavoce della cancelliera Angela Merkel. Preoccupazione per le sorti della magistratura turca. turca e degli altri funzionari arrestati e consapevolezza che i giorni a venire saranno cruciali per il futuro democratico della Turchia. È il messaggio del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muizhnieks. Amnesty International ha espresso il timore che il massiccio giro di vite ordinato dalle autorità turche si estenda fino a censurare gli organi di informazione e i giornalisti. Intanto il sito di inchiesta Wikileaks ha pubblicato quasi 300.000 email del partito di governo turco, AKP, inviate prima del colpo di Stato fallito nel paese. Subito dopo, Wikileaks è stata oscurata in Turchia. Autori del sabotaggio, secondo Wired USA, sarebbero stati hacker al soldo proprio di Erdogan. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo anche della strage di Nizza, perché c'è stato anche l'omaggio di Mattarella alle vittime italiane della strage, che sono le salme, sono arrivate oggi in Italia. In azione, lupi solitari nel frattempo, malati di mente, conferma l'Europol. Tornano avvolti dal tricolore, anche se erano partiti solo per una vacanza in Costa Azzurra, e allo scalo di Malpensa c'è anche il capo dello Stato ad accoglierli come caduti di una guerra dichiarata all'Occidente. Fanno rientro in Italia i corpi dei connazionali morti nella strage di Nizza, per ora 4 delle 6 vittime, e nell'aeroporto, insieme allo strazio dei parenti della coppia di Voghera e di quella milanese, Angelo D'Agostino, Gianna Musè, Mario Casati e Maria Grazia Ascoli, c'è la commozione dell'intero paese per un massacro che non può dirsi ancora con certezza firmato dall'ISIS. Orlando, Magnaville, Nizza, Würzburg, anche se tutti e quattro sono stati rivendicati dal califfato, nessuno sembra essere stato pianificato direttamente dall'ISIS, analizza Europol, che sottolinea come non siano chiare le affiliazioni a Daesh né per il tunisino attentatore della Promenade né per quello del treno bavarese, forse pakistano, non afghano, ma entrambi rispondono al profilo del lupo solitario che spesso, nota Europol, ha problemi mentali. Aggressori singoli che si sentono spinti dall'ISIS, dice il ministro dell'interno tedesco Thomas de Maizière, che sottolinea come non ci sia alcun legame tra l'atto terroristico e l'accoglienza dei migranti. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel frattempo un gruppo terrorista islamico ha pubblicato su Telegram un manuale, diciamo così, con 17 tecniche per compiere attentati durante le Olimpiadi di Rio. I terroristi si rivolgono anche in questo caso ai lupi solitari. E a proposito di quest'ultimi, l'inviato speciale americano per la coalizione anti-ISIS, Brett McGurk, commentando gli attentati, appunto dei cosiddetti lupi solitari ispirati dall'ISIS, ha detto: nessuno può dire che questi attacchi cesseranno, sfortunatamente penso che ne vedremo di altri. Allora rimaniamo con gli Stati Uniti, a Cleveland, terza giornata della convention repubblicana, che ieri con 1725 voti ha nominato Donald Trump candidato ufficiale repubblicano alla Casa Bianca. Oggi è il giorno dell'atteso discorso del suo vice, Mike Pence. Intanto è spuntata l'autrice del discorso della First Lady, della moglie di Trump, Melania, accusata di averlo copiato da un intervento di Michelle Obama. Nel 2008 questa Meredith McKeever, dello staff di Trump, ha ammesso le sue responsabilità presentando le dimissioni, che però sono state respinte. E dalla politica americana alla politica italiana, in Senato oggi c'è stata bagarre per il no all'uso di alcune intercettazioni di Berlusconi. Con 130 no, 120 sì e 8 astenuti, il Senato, votando a scrutinio segreto, salva Silvio Berlusconi dall'uso delle intercettazioni con le oggettine per il processo Rubiter. L'Aula capovolge così la decisione della Giunta per l'immunità parlamentare, che si era invece espressa per il via libera all'autorizzazione. Le telefonate, che proverebbero regali dall'ex premier alle ragazze in cambio di una sorta di lealtà processuale, resteranno comunque agli atti, ma utili solo come prove a carico delle donne e non di Berlusconi. Subito dopo la votazione, le proteste del Movimento 5 Stelle inducono il presidente Grasso a sospendere la seduta. Il Partito Democratico però attacca i senatori grillini, accusandoli di avere votato in segreto a favore di Berlusconi usando trucchi da Prima Repubblica. Così la senatrice PD Monica Cirinnà. Il Movimento 5 Stelle ha votato insieme a tutte le destre per proteggere Berlusconi. Come io dico da mesi, il Movimento 5 Stelle è ormai un partito di destra. Il Nazareno è rinato, ribattono i 5 Stelle con Beppe Grillo, che sul blog parla di un inciucio che non finisce mai. Su Facebook, pubblicata dalla pentastellata Sara Paglini, la foto del tabellone del Senato che mostra chi ha chiesto il voto segreto, vale a dire parlamentari di ALA, PD e gruppo misto. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Insomma, reciproche accuse tra Movimento 5 Stelle e PD, chi ha votato salvando Berlusconi. Di questo parleremo anche di questo più tardi. Parliamo adesso di Stefano Ricucci, invece, che torna in carcere. L'accusa è fatture false ed è stato arrestato anche Mirko Coppola, e c'è un giudice tributario tra gli indagati. 10 anni dopo la tentata scalata del Corriere della Sera, Stefano Ricucci torna in carcere. L'immobiliarista romano è stato arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su mandato del GIP di Roma, con l'accusa di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In carcere è finito anche Mirko Coppola, un imprenditore di Colleferro. Secondo l'accusa, Ricucci avrebbe utilizzato un giro di fatture false per 1 milione di euro per ottenere liquidità finanziaria. L'inchiesta della Procura di Roma, condotta dal pubblico ministero Paolo Ielo, scaturisce da un contesto investigativo più ampio legato al fallimento di una società del gruppo Magister, riconducibile a Ricucci. 10 gli indagati, fra i quali, oltre a Ricucci e Coppola, c'è anche un magistrato del Consiglio di Stato, nonché componente della Commissione Tributaria Regionale, Nicola Russo. Ricucci, protagonista anche della scalata BNL Antonveneta, 10 anni fa fu arrestato dalla Guardia di Finanza per i reati di aggiotaggio e rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta romana sulla scalata RCS. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E si torna a parlare anche di Fabrizio Corona, perché non potrà abbandonare il territorio della regione Lombardia né fare viaggi all'estero, dovrà tenere una condotta adeguata al percorso di affidamento ai servizi sociali. Queste sono le prescrizioni disposte dal Tribunale di Sorveglianza di Milano per l'agente fotografico che qualche settimana fa è andato con la fidanzata in vacanza a Capri senza alcuna autorizzazione. Parliamo adesso di un argomento invece serio come i vaccini. L'Ordine dei Medici avverte: chi li sconsiglia rischia la radiazione. È estremamente importante il documento della Federazione degli Ordini dei Medici sulle vaccinazioni. Secondo la ministra Lorenzin, i medici che sconsigliano i vaccini, si legge appunto, infrangono il codice deontologico e vanno incontro a procedimenti disciplinari che possono arrivare alla radiazione. Sentiamo Luigi Conte, segretario generale della Federazione, intervenuto a Effetto Giorno, ospite di Simone Spezia. Noi vogliamo richiamare l'attenzione di tutte le istituzioni, sia politiche che sanitarie del nostro Paese, su una deriva molto preoccupante che è la riduzione del ricorso alle vaccinazioni, che sono state una delle più grandi conquiste dell'umanità in questi anni. Questa preoccupazione praticamente viene espressa da una serie di regole che noi proponiamo alle istituzioni, tra cui anche la magistratura. Si può arrivare alla radiazione? Noi abbiamo 4 gradi di sanzioni che partono dall'avvertimento alla censura, alla sospensione fino alla radiazione. È chiaro che avremo una valutazione accurata di quelle che sono le mancanze deontologiche inerenti il fatto che ogni medico ha l'obbligo di non sottrarre i propri pazienti a cure sperimentate e documentate. Il TAR della Lombardia ha sospeso in via cautelare i contestatissimi aumenti delle bollette di luce e gas scattati lo scorso 1 luglio. I giudici hanno accolto questo ricorso del Codacons presentato denunciando speculazioni dei grossisti sul mercato. Il presidente Rienzi del Codacons, sentiamo al microfono di Roberta Pellegatta. È assurdo che nel nostro paese l'autorità dell'energia, che dovrebbe tutelare i cittadini, aumenta le tariffe di luce e gas dicendo: scusate, le aumento perché i grossisti hanno imbrogliato, hanno fatto speculazione, ma devo aumentare. Ma dove siamo? In che paese ci troviamo? Il TAR naturalmente ci ha dato subito ragione, ha sospeso. Non si può fare un aumento delle tariffe e scaricare sugli utenti gli imbrogli e le speculazioni dei grossisti dell'energia. Ma in che modo questi grossisti hanno speculato? Ben spiegato nel provvedimento dell'autorità, facendo mancare l'energia in alcune regioni, per esempio in Sardegna, quindi facendo aumentare i prezzi artatamente. Noi adesso abbiamo fatto una denuncia per associazione per delinquere e truffa aggravata contro questi signori che nemmeno sappiamo chi sono, perché l'autorità poi ha posto l'elenco, non pubblica l'elenco, e quindi invitiamo tutti gli utenti a protestare, andare sul nostro sito e a scaricare gratuitamente la nomina di parte offesa per agire per i risarcimenti. Una notizia di scienza e medicina con un nuovo programma riabilitativo intensivo creato ad hoc. Il cervello è in grado di effettuare un vero e proprio switch, spostando, cioè in caso di gravi lesioni, le centraline cognitive della parola e del movimento dall'emisfero sinistro a quello destro. Lo dimostra il caso di un ragazzo 19enne bilingue di origine rumena ma residente dall'età di 7 anni in Italia. Nel 2009 aveva avuto un grave incidente stradale con conseguente trauma cranico e coma, oltre a gravi difficoltà cognitive dell'uso della parola, e invece è molto migliorato. Il primo caso documentato Comitato al Mondo, sottolinea Andrea Marini, docente di neuroscienze cognitive all'Università di Udine, che è il primo autore di questo studio. Dice: il primo caso in cui l'emisfero destro ha supplito l'emisfero sinistro facendo in pratica un doppio lavoro. Questo studio è pubblicato su Brain and Language, a cui hanno partecipato l'Università di Udine, quella di Torino, il Centro per il Recupero Cognitivo Puzzle. È praticamente una ricerca italiana ed è una dimostrazione delle potenzialità del cervello e apre a nuove possibilità di recupero del linguaggio e del movimento in caso di ictus o di altre lesioni gravi. Per chiudere lo sport, prima sport e doping, perché la velista Roberta Caputo, tra le qualificate dell'Italia Team a Rio 2016, è stata trovata positiva al doping in un controllo fuori competizione effettuato il 6 luglio scorso a Napoli. L'atleta quindi è stata sospesa in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping. Al suo posto nella classe 470, in coppia con Alice Sinno, quindi ci sarà Elena Berta. E per il calcio, a dominare il caso Higuain: se la Juventus tornasse alla carica ci vorrebbe il consenso di Higuain, che tradirebbe se stesso, ha detto il presidente del Napoli De Laurentiis in una conferenza stampa, chiarendo che sono tutte illazioni che vengono fuori mediaticamente. La vera proposta l'ho ricevuta con una telefonata dal presidente dell'Atletico Madrid circa un mese fa, e gli ho detto: caro, non si può fare. Lui aveva offerto 60 milioni più 2/3 giocatori, e io ho detto: non si può fare, la clausola rescissoria va pagata per intero. E questo è il quadro della giornata. Adesso ci sono gli aggiornamenti per chi viaggia, poi cominceremo a approfondire man mano gli argomenti con gli ospiti. Anche naturalmente un occhio ogni tanto ai vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure al numero per WhatsApp e SMS, che è il 349-238-6666. Per esempio Claudio commenta la notizia di questo annuncio dell'ISI su Telegram di colpire anche coi lupi solitari le Olimpiadi di Rio. Dice: un annuncio shock, le azioni dei terroristi diventano sempre più efferate, seminando paura ora ovunque. La notizia data poco fa deve essere, speriamo, falsa, magari ricercando l'autenticità della stessa non sarebbe male. Tuttavia, scrive, ma Claudio, se il soggetto che ha agito a Nizza in modo solitario ha agito emulando le istruzioni date da qualche leader dell'ISIS, è ancora più inquietante, chiederei subito la sospensione dell'evento sportivo, anche se quello che si dice sempre, Claudio, è quello che vogliono, no? Che si fermino tutte queste attività, la vita quotidiana, ma anche i grandi eventi come sono le Olimpiadi di Rio. Quindi, a parte che sarebbe anche molto complesso bloccare tutto. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie e argomenti che man mano approfondisco tra poco con gli ospiti, sempre Roberta Giordano con voi, anche i vostri messaggi, le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, dove per esempio Carla da Roma scrive: lupi solitari, quanti sono gli alcolisti, tossicomani, depressi, paranoici, emarginati, eccetera, nel mondo? Purtroppo, infatti, ed è interessante proprio studiare anche l'innesto dell'ideologia, della religione, della morte sulla follia, sul grado di follia di molti individui, diciamo. E poi invece questo altro ascoltatore dice: roba da matti, con tutti i gravissimi problemi italiani nel mondo, i nostri netti e ridicoli politici non trovano di meglio che litigare ancora sul discorso delle oggettine, chi se ne frega, dice, non ho parole, andrebbero buttati fuori tutti dal Parlamento e dal Senato. Comunque, insomma, queste sono le procedure. Il Senato doveva votare se dare il permesso ai PM di usare queste intercettazioni, questo è stato il voto. Certo, poi una gran bagarre di cui parleremo però più tardi. Adesso invece, tra pochissimo, ci colleghiamo con Istanbul e vengo a sapere adesso che sapete che dovevamo raggiungere la console italiana a Istanbul, Federica Ferrari Bravo. Ci eravamo messi d'accordo, però mi ha fatto sapere che la Farnesina, il Ministero degli Esteri italiano, ha dato ordine ad ambasciatori e consoli di non parlare in questo caso. Quindi evidentemente la situazione è molto molto molto delicata a Istanbul. Ci collegheremo lo stesso con Marco Barbonaia tra pochissimo. Intanto, se non avete acceso puntualmente la radio, vi ricordo le notizie più importanti. Proseguono le purazioni di Erdogan in Turchia, arrestato anche il rettore dell'università di Ankara, sospesi altri 6.500 docenti. Berlino dice è contro lo Stato di diritto. Berlusconi e le oggettine, salvo Berlusconi con il voto segreto, lite quindi tra il Movimento 5 Stelle e il PD che si accusano reciprocamente. E poi Mattarella, il Presidente della Repubblica, che ha accolto a Malpensa le salme di 4 delle 5 vittime italiane della strage di Nizza. E poi l'ombra del terrorismo su Rio, lupi solitari, colpite i giochi. Questo è un messaggio scritto su Telegram, pare, da miliziani o comunque simpatizzanti dell'ISIS. Il trionfo di Trump alla Convention Repubblicana degli Stati Uniti, dice: un grande onore, non vi deluderò. E poi Ricucci che torna in carcere, fatture false per 1 milione, questa è l'accusa. E poi un magistero. È stato arrestato anche Mirko Coppola. Sanzioni se i medici sconsigliano i vaccini. Questa è la decisione dell'Ordine dei Medici e Lorenzini dice bene perché preoccupa il calo dell'uso di questi vaccini. E poi la morte di un giornalista russo, un ordigno su un'automobile uccide un giornalista liberale russo in Ucraina, 0,5 chilo di tritolo a Kiev, e Poroshenko dice puniremo i colpevoli. Quindi continuiamo in questi giorni naturalmente a parlare della Turchia, adesso a 5 giorni dal fallito golpe, procedono a ritmo impressionante queste epurazioni di massa con decine di migliaia di arresti, di licenziamenti tra militari, dipendenti pubblici, funzionari, insegnanti, rettori universitari, imam, dipendenti ministeriali. Dicevo ieri, forse ormai resteranno solo i fruttivendoli, i macellai, qualche negoziante. Amnesty International denuncia anche estese torture, sono state chiuse tra l'altro 24 tra TV e radio. E tra l'altro, come in ogni situazione in cui predomina questa, una cultura macista, insomma, della repressione, della violenza, della coercizione, le prime a rimetterci sono le donne, e temono infatti che possa temono l'avvento della legge islamica che imponga loro l'obbligo del velo. Ci colleghiamo quindi con Istanbul con Marco Barbonaglia. Ciao Marco. Buonasera, in questo momento io mi trovo a discutere, arrivo da Piazza Taksim, discutere un altro dei feudi di Erdogan. In questo momento c'è un mare di gente festeggiando mentre il muezzin sta cantando e sta invitando la gente alla preghiera in maniera molto, molto forte e rumorosa. In questo momento vi va bene che non sta cantando, se non sentireste nulla di quello che vi dico. Marco, tra l'altro, pare che insomma tu che sei a Istanbul avrai visto questi caroselli di macchine ovunque con i fedelissimi del partito di Erdogan che urlano Allah Akbar. È un po' come per un cristiano dire Padre Nostro, diciamo, cioè non è necessariamente a qualcosa di negativo come si vede da noi. Certo è che io ho visto adesso, ho visto questa enorme festa che prosegue anche qua dove mi trovo adesso, pacifiche, non mancano però elementi di provocazione che in Turchia potrebbero portare dei problemi. Io ho visto molti, specialmente ragazzi più giovani, arrampicati sulla statua di Atatürk con le foto in mano, abbarbicati con i piedi sulla testa della statua di Atatürk. Ecco, questo può creare, diciamo, far bollire il sangue ad alcune persone in Turchia, quindi per il momento la piazza è e normalmente la massa di persone che si vede è anche abbastanza è pacifica, diciamo, non è nulla di inquietante da vedere, a parte il fatto che la bandiera turca che tutti hanno in mano, come già dicevo ieri, viene sventolata come se fosse la bandiera di Erdogan ormai, ecco. Marco, senti, ma questa paura appunto delle donne di essere costrette prima o poi, cioè, a passare dalla laicità che era durata fino a qualche tempo fa del paese, del governo turco, dici che è fondata? Allora, ovviamente le donne, naturalmente le donne turche che vivono, abituate a vivere all'occidentale, hanno questo tipo di timore, anche se non è una cosa che vedono come possibile, almeno quelle con cui ho parlato io, come una minaccia che possa, ecco il muezzin esprimendo in tutta la sua vocalità, che possa attuarsi domani, per intenderci, però chiaramente è una cosa che temono naturalmente. Per ora devo dire che ho visto in piazza donne che senza il velo insieme, magari di generazioni diverse, madri con le figlie, non è un elemento per ora così dirimente, però certo le donne abituate a vivere, ce ne sono tante, ma proprio tante, abituate a vivere all'occidentale, non vanno a trovarsi in uno stato dove in qualche modo siano obbligati a vestirsi in un certo modo, comunque a vivere in maniera strettamente islamica. Non è una minaccia, appunto, che viene percepita come qualcosa che può capitare domani. Marco Barbonaglia è anche, diciamo, particolare, anche folcloristico, se si vuole sentire direttamente dietro di te questa voce, però finisce che non si sente più niente. No, grazie Marco, ti saluto e ti ringrazio intanto e ti lascio alla piazza. Marco Barbonaglia, ciao. E sempre a Istanbul c'è il nostro Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Sì, buonasera a tutti voi. Alberto, quindi feste di piazza che inneggiano Erdogan, abbiamo parlato di queste decine di migliaia di epurazioni, anche TV e radio chiuse, Amnesty International denuncia delle torture, soprattutto nei confronti dei militari, abbiamo visto nei giorni scorsi sui siti foto di questi militari seminudi, tutti ammassati, legati in una palestra. Insomma, la situazione ci pare piuttosto tesa, c'è preoccupazione internazionale, anche se probabilmente al momento, anche per questioni diplomatiche, non si sa bene cosa fare. Dove sta andando questo paese? Dove sono finiti? Dove è finita anche la parte liberale del paese? Sembra sparita o è solo spaventata, Alberto? Secondo me era già sparita prima, perché se voi guardate i risultati elettorali, hanno dato sempre una maggioranza abbastanza schiacciante a Erdogan, no? Confermando che questo paese è un paese conservatore, musulmano, tradizionalista, come si sapeva ormai da parecchi anni, anche quella storia del velo delle donne cui si attaccano i nostri giornali perché probabilmente non hanno altro da scrivere, beh, insomma, se andassero per strada se ne accorgerebbero. In realtà le donne col velo sono circa il 60%, esattamente il numero di donne che portano il velo in questo paese ormai da 15 o 20 anni. Io invece oggi a Piazza Taksim, dove peraltro c'era quello striscione, no? Sì. Che diceva cane, impiccheremo Gulen, sì, lo impiccheremo Gulen, e nella stessa piazza c'erano ragazze senza il velo con le gonne corte come da stagione, insomma, che sorridevano, forse perché l'età giovane è quella in cui si sorride sempre, anche nei momenti più drammatici, no? Quindi non mi pareva che questo fosse l'argomento. Purtroppo però si perde tempo a discutere di questo e invece non si discutono delle cose più importanti, cioè del fatto che questo paese è un paese della NATO con 24 basi dell'Alleanza Atlantica e che la base di Incirlik, che doveva portare i raid contro il califfato, da 4 o 5 giorni non ha la luce elettrica e vanno avanti coi generatori. Persino gli americani hanno detto che è un problema. Altro che problema, un paese dell'Alleanza Atlantica che fa un golpe, fa un controgolpe di queste dimensioni, che ha 24 basi con armi nucleari oltretutto, perché c'è un arsenale anche nucleare a Incirlik. Beh, io mi domando fino a che punto staremo a guardare quello che accade qui dentro, no? Ed accade da oggi, ma accade da parecchi anni con la complicità nostra, perché Erdogan le misure di repressive le aveva già prese parecchio tempo fa, ricordiamoci. Arresto dei giornalisti, no? Piazza Taksim, ragazzi, certo. Cioè è tutto il resto. Insomma, parliamoci Jetsi chiaro. Park, no, anche la ma i massacri dei curdi civili, li dimentichiamo pure quelli? Io ho visto delle cose a Cisre, forse perché non ci vanno i nostri colleghi a Cisre, ma a Cisre hanno ammazzato qualche 150 civili nelle cantine. Insomma, poi ci siamo già dimenticati di Kobane? Di quando quelli di Kobane resistevano al califfato, aspettavano i volontari e dall'altra parte la polizia di Erdogan bastonava i volontari che andavano a combattere contro i jihadisti. Insomma, tutte cose che abbiamo lasciato correre e tutti i nodi che adesso vengono a pezzi. Alberto, tu sei un inviato speciale, certo magari non sta a te dire che cosa si dovrebbe fare a questo punto dell'ambiguità di Erdogan, si è parlato tante volte sia nei confronti dell'ISIS, poi nei suoi rapporti internazionali, adesso ha stretto di nuovo pace, alleanza con Putin, con Israele. Quindi secondo te a questo punto, tranne che gli avvertimenti così a parole come anche Angela Merkel che dice se reintrodurrà la pena di morte fuori dall'Europa sta compromettendo lo Stato di diritto, che cosa dovrebbe fare secondo te davvero la comunità internazionale e magari in particolare l'Europa? Allora, vediamo intanto cosa farà Erdogan, che in questo momento peraltro Dico Roberto sta parlando dal Jazeera e fra l'altro ha detto che teme colpi di coda ancora dei golpisti, no? Cos'è, una scusa, dici, per ulteriormente allungare il pugno duro, il fatto di prevedere... Oltretutto devono essere ancora annunciati questi minuti, aspettiamo da ore i risultati del Consiglio, dell'Alto Consiglio di Sicurezza che lui stesso ha presieduto, con dentro civili e militari, che dovrebbe dare quelle che sono le nuove misure di emergenza. Mm. È stata esclusa per ora la legge marziale, almeno così ha detto il vice primo ministro Chanakli. Però non ne sono escluse misure di emergenza o tribunali speciali o addirittura un allungamento del fermo di polizia. Bene, a seconda di tutte queste misure che Erdogan prenderà, ci dovranno essere delle reciprocità da parte, delle da parte della comunità internazionale, da parte dell'America, da parte dell'Europa, che in qualche modo controbattano e rispondano a queste misure che sono evidentemente oltre lo stato di diritto, prese da Erdogan stesso. Cioè, dobbiamo capire che cosa farà, già lo abbiamo visto cosa sta facendo, cioè 60.000 siluramenti, 10.000 arresti, e insomma è nata praticamente una nuova città in Turchia che è la città dei desaparecidos, no? In poche parole. Però davanti a questo certamente ci deve essere una reazione. Dove può andare questo paese? Beh, e qui è la cosa grave. Perché quelle immagini, da cui tu sei giustamente partita, dei militari, come dire, umiliati, no? In quella palestra, schiacciati come sardine, a me hanno ricordato tanto il golpe del 1980, io ero qui 36 anni fa, avevo 23 anni, e ricordo quei momenti, ebbi una paura tremenda, ero giovane, naturalmente, inesperto, e capisco che paura si può avere in questi momenti. Quando tu mi dici l'opposizione laica, dov'è, eccetera, la gente ha paura. Ha paura. Non è la questione del vero, ha paura per il proprio posto di lavoro, magari semplicemente, ha paura di essere arrestata, ha paura di in qualche modo avere qualche misura restrittiva, di farsi togliere il passaporto. Avete visto che hanno tolto il diritto di viaggio persino agli accademici, ai professori. E hanno imposto, eccetera, anche di rientrare, no? Tante persone, anche agli studenti turchi in giro per il mondo. Esattamente, tutte queste sono misure, come capite bene, restrittive e liberticide, ma in momenti come questi, stando fuori come stiamo noi, io sono qui, siamo fuori, non siamo cittadini turchi, è facile parlare, però è molto più difficile, è molto più difficile agire. Io ho visto troppo in questo Medio Oriente per non essere anche un pochino pessimista, e non essere ed essere pessimista anche per gli errori che sta facendo Erdogan. Perché, come dicevi tu, l'umiliazione di quelle forze armate è difficile da digerire. Sapete, stasera sono passato davanti a due caserme. Davanti a queste due caserme, gli ingressi erano sbarrati da camion della spazzatura e dietro c'era la polizia. Cioè, i militari non possono uscire. Mai in questo paese le forze armate erano state così umiliate. Forse passeranno sei mesi, forse passerà un anno o due. Ma ci sarà una reazione, probabilmente, potrebbe esserci una reazione, potrebbe essere che questo paese si trovi ancora tra qualche mese più polarizzato e diviso ancora di più di quanto non sia adesso. E naturalmente i danni non saranno solo per il paese stesso, ma anche per gli altri paesi, per il mondo intero, visto l'importanza. Ma come facciamo a non essere preoccupati? La Turchia è un ventricolo del cuore del sistema della sicurezza europea. Ripeto, 24 basi NATO, armi nucleari, e dal 1952 membro dell'Alleanza. Come si può, oltretutto un paese candidato a entrare nell'Unione Europea, con cui fino alla settimana fa negoziavamo i capitoli d'ingresso, pensavamo alla liberalizzazione dei visti. Pensate in che paradosso siamo precipitati tutti, non soltanto i turchi. E su questo paradosso ti ringrazio, Alberto Negri. Grazie, buon lavoro. Grazie a Istanbul. Voi. Ciao Alberto. Direi che non aggiungerei altre parole, tranne i vostri messaggi, stanno arrivando molti, addirittura qui qualcuno dice: vuoi vedere che Erdogan è il nuovo capo dell'ISIS? Questo no, però insomma ci ha descritto bene la situazione, la sua preoccupazione, quella che dovrebbe essere la preoccupazione internazionale, Alberto Negri. Continuate con le vostre riflessioni al 349-238-6666, numero per WhatsApp, SMS, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, e state continuando a scrivere alla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666 sui vari temi fanno parte di questa puntata di Effetto Notte. Abbiamo parlato adesso lungamente della situazione in Turchia, collegandoci con Istanbul, dove non è stato possibile trovare la console con la quale avevamo preso accordi nel pomeriggio, perché dalla Farnesina è arrivato l'ordine di non parlare sia per gli ambasciatori che per i consoli. Abbiamo però parlato con il corrispondente da Istanbul Marco Barbonaglia, col sottofondo del Muezzin che proprio si faceva sentire forte in quel momento, ci ha raccontato la situazione di piazza, della gente apparentemente in festa, e poi abbiamo sentito anche la passione e l'indignazione dell'inviato speciale del Sole 24 Ore Alberto Negri su quello che la Turchia sta diventando e dove potrebbe anche andare. Ci ha ricordato che ha numerosissime basi NATO con anche armi atomiche. Adesso però cambiamo argomento, volevo ancora però leggere alcuni vostri messaggi. Per esempio Alessandro scrive: la situazione della donna in Turchia è andata peggiorando mano a mano che il colpo di stato silenzioso e islamizzante è stato portato avanti. La Turchia attuale è l'Islam più viscerale mai debellato dal tentativo di modernizzazione che ha fallito purtroppo infrangendosi per corruzione e abuso insiti nell'opportunità delle libertà. Quanti tamari a favore di Erdogan, dice. Poi Marco: la Turchia dal punto di vista geopolitico riveste un ruolo molto delicato, a turno tutti cercano il suo appoggio, la vedo dura adesso. E Mauro invece scrive: vedo un futuro triste per le donne turche del tipo Kabul. Vi ricordo, se non avete acceso puntualmente la radio alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. Turchia, appunto, proseguono le epurazioni di massa, arrestato anche il rettore dell'Università di Ankara. La cancelliera Merkel commenta: una beffa allo Stato di diritto e le donne turche temono l'obbligo del velo. La strage di Nizza, sono rientrate a Milano le salme degli italiani, ad accoglierle anche il capo dello Stato Mattarella. Il processo Rubiter, il Senato vota no all'uso delle telefonate di Berlusconi alle Olgettine, a Palazzo Madama scoppia lo scontro tra Movimento 5 Stelle e PD, ne parleremo tra pochissimo. Stati Uniti, Trump trionfa alla convention repubblicana, un grande onore, dice, non vi deluderò. Ricucci torna in carcere, le accuse sono fatture false per 1 milione. Vaccini, l'ordine dei medici avverte, chi li sconsiglia rischia la radiazione. Pongo in votazione la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di tutte le conversazioni telefoniche del dottor Silvio Berlusconi, parlamentare all'epoca dei fatti, oggetto della richiesta dell'autorità giudiziaria. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Allora il Presidente sospende la seduta per 5 minuti. Il Presidente del Senato Grasso, l'avete visto, ha dato conto della votazione oggi al Senato, nell'Aula del Senato, Senato che ha fatto a voto a scrutinio segreto, che non ha dato l'autorizzazione, insomma, l'utilizzo di intercettazioni telefoniche fra Silvio Berlusconi e le cosiddette Olgettine, vi ricordate, per il processo Rubiter. I voti favorevoli sono stati 120, contrari 130 e gli astenuti 8, e alla lettura dell'esito della votazione subito è scoppiato lo scontro tra PD e Movimento 5 Stelle, infatti poi Grasso, come avete sentito, ha sospeso la seduta. I senatori grillini hanno protestato tanto che Grasso ha sospeso. Beppe Grillo ha detto sul suo blog: è un inciucio che non finisce mai. Ora che il referendum costituzionale si avvicina, dice, il PD salva Silvio Berlusconi in cambio di un benevolo atteggiamento suo e del suo potente impero mediatico nei confronti della consultazione popolare, cioè in vista del referendum di ottobre. Questa è l'accusa di Grillo. Dall'altra parte il PD dice: complice il voto segreto, a votare per il no all'utilizzo delle intercettazioni sono stati grillini, prove di alleanza in aula tra Movimento 5 Stelle e destra. Insomma, scontro, abbiamo detto, tra PD e Movimento 5 Stelle, reciproche accuse su chi ha approfittato del voto segreto per, diciamo, salvare Berlusconi. Ne parliamo con Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Guido. Buonasera, buonasera a voi. Insomma, conti alla mano, che la colpa, insomma, il fatto che il voto sia andato in un certo modo, di chi è? Perché leggevo poi che a chiedere il voto segreto sono stati 4 del PD, 1 del Movimento 5 Stelle e 2 delle autonomie. Però i senatori del PD poi in serata hanno detto: abbiamo sostenuto per errore il voto segreto, una cosa un po' bizzarra, ma comunque. Che dici Guido? Beh, insomma, aver sostenuto il voto segreto certamente poteva portare a degli sbocchi più imprevedibili e imprevisti di quelli che si potevano immaginare con un voto a scrutinio palese. Certamente c'è stata un po' di bagarre in aula e ovviamente le spiegazioni sono opposte, diametralmente opposte, cioè 5 Stelle dicono è stato il PD che appunto in cambio di un atteggiamento più favorevole sul referendum costituzionale ha dato questo via libera a Berlusconi, e il PD invece dice no, sono prove diciamo di una nuova maggioranza di destra, chiamiamola così, tra Grillini e Forza Italia. Ora diciamo, la verità non la sapremo mai fino in fondo, perché il voto è segreto appunto, e quindi non potremo saperla fino in fondo. Però certamente va iscritta questa pagina di oggi, va iscritta al di là del merito della questione, va iscritta in una situazione che è particolarmente complicata al Senato, perché dove sappiamo che ci sono dei voti, dei numeri più difficili per il sostegno del governo, e sappiamo che sono in corso delle grandi manovre al centro dello schieramento politico e in particolare della parte che sostiene il governo, perché è notizia di ieri dell'uscita dell'ex presidente del Senato Renato Schifani, no? Dal nuovo centrodestra. Del PD, esatto, che è il partito che aveva fondato insieme all'attuale ministro dell'interno Angelino Alfano e che sostiene il governo. Adesso Schifani insieme a due altri senatori, ma si parla di una pattuglia un poco più numerosa, forse se arriveremo a 8-10 senatori, sarebbe diciamo lascia l'NCD e si riavvicina al di nuovo Forza Italia. Guido, scusami, c'è Clotilde che scrive: rifiuto dell'autorizzazione delle intercettazioni dimostra che Verdini è il cavallo di Troia di Berlusconi, ma l'abusivo non si vergogna, la minoranza PD che fa? Ti sembra un'ipotesi campata per aria questa? Quella di Verdini? Come il cavallo di Troia di Berlusconi, che in realtà fa finta di litigare con lui, di allearsi o di sostenere perlomeno Renzi. Poi invece... no, questo, nella politica italiana è tutto uno spettacolo, è tutto un retroscena continuo, diciamo. Quindi è difficile poi distinguere fino a che punto diciamo può essere una situazione questa verosimile. Certamente sappiamo che Verdini da tempo ha lasciato Forza Italia e si è avvicinato a Renzi, e sappiamo che Berlusconi negli ultimi mesi si era schierato per un no aperto sul referendum costituzionale, che è un momento di passaggio decisivo per il premier Renzi, e sappiamo che ci sono delle grandi manovre al centro dello schieramento, l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi con il vice ministro dell'economia Zanetti, che ha lasciato lo schieramento, quindi si è avvicinato lui a sua volta a Verdini. Quindi è chiaro che si sta ricomponendo, diciamo. Sì, ci sono un po' di manovre, insomma. Esatto, un po' di manovre. Un po' di manovre, diciamo, ecco, che di ricollocamenti. E di ricollocamenti vari. Diciamo. Grazie, Guido Gentili. Grazie, Guido. A voi, grazie. Buona serata e buon lavoro. Bene, adesso vedo un sacco di complimenti per Alberto Negri, Luigi da Padova, e poi anche questo ascoltatore dice: magistrale come sempre l'analisi di Alberto Negri, ma la Realpolitik impone all'Europa e Stati Uniti di lasciare al potere Erdogan. Infatti vedevo anche un'agenzia, una dichiarazione della Casa Bianca di poco fa, che diceva: sosteniamo il governo democraticamente eletto di Erdogan, e quindi continuano ad esserci queste affermazioni. Viabilità, e poi di nuovo insieme continuate con le vostre riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. A proposito di notizie, Roberto Giordano sempre con voi. Vi dicevo, Alberto Negri raccontava prima che Erdogan sta parlando adesso alla TV araba Al Jazeera e ha detto, fra le altre cose, in Turchia il colpo di Stato è stato organizzato da una minoranza che rappresenta un'organizzazione terroristica che voleva imporre la propria volontà alla maggioranza del paese. E poi ha anche detto: da venerdì non ho mai lasciato la Turchia, cioè dal giorno del colpo di Stato fallito. È assolutamente falso che io abbia chiesto asilo in Germania, perché sapete che c'era stata prima questa notizia che aveva chiesto di atterrare in Germania, gli era stato rifiutato. Si tratta, dice, di affermazioni fatte solo per dipingermi in difficoltà. Allora vi riepilogo molto velocemente quelle che sono le notizie principali, che sono appunto le purazioni che proseguono da parte di Erdogan in Turchia, arrestato anche il rettore dell'Università di Ankara, sospesi altri 6.500 docenti, e Berlino che dice tutto questo è contro lo Stato di diritto. Berlusconi e le oggettine, salvo con il voto segreto, liti dal Movimento 5 Stelle e PD, ne abbiamo appena parlato, e poi Mattarella, il Presidente della Repubblica, che ha accolto a Malpensa le salme di 4 delle 5 vittime italiane della strage di Nizza. Europa 24 notte. Ridurre la domanda attraverso una maggiore opera di sensibilizzazione, ridurre anche l'offerta, incentivando la collaborazione tra i Paesi membri, ma soprattutto migliorare la conoscenza del fenomeno, investendo in ricerca e monitoraggi su base nazionale e comunitaria. Sono gli obiettivi che si prefissa il piano d'azione in materia di lotta alla droga, adottato dal Consiglio europeo per il periodo 2013-2016. Il prossimo dicembre si tireranno le somme su quanto fatto in questi 4 anni. Intanto però il mercato degli stupefacenti è in continua evoluzione. Quali sono le sostanze di più largo consumo nei paesi dell'Unione Europea? Lo abbiamo chiesto a Sabrina Molinaro di ESPAD, l'Osservatorio Europeo di Ricerca su Alcol e Altre Droghe. In Europa la sostanza d'elezione resta comunque sempre la cannabis, soprattutto fra i giovani. In buona sostanza cocaina e sostanze sintetiche che se la giocano, ecco, sono al solito, più o meno al solito livello. Ci sono paesi dove le sostanze sintetiche sono più in voga, tipo l'est europeo, tipo il nord Europa, ci sono paesi come l'Inghilterra e la Spagna dove invece è la cocaina a fare la seconda sostanza rispetto alla cannabis. Noi in Italia seguiamo quello che è il trend europeo e ci posizioniamo nella parte alta della classifica rispetto ai consumatori di sostanze psicoattive. Per quanto riguarda l'eroina, abbiamo visto che c'è stato un ritorno dell'eroina in alcuni paesi dell'est europeo. Non hanno osservato il nostro stesso incremento invece molti paesi del sud d'Europa. Fortunatamente i giovani che consumano eroina sono comunque una minoranza, stiamo parlando dell'1,5% della popolazione giovanile 15-19, quindi non siamo ai livelli dei consumi di cannabis che è intorno al 30%. All'interno di questo contesto generale, l'Italia si attesta in linea con i trend europei. Alcuni consumi risultano però al di sopra della media. Nell'ultimo studio che è stato fatto a livello europeo, che era quello del 2011, l'Italia era sicuramente uno dei paesi al top per l'uso di psicofarmaci senza prescrizione medica. Un'alta percentuale, stiamo parlando del 12% di studenti, mi dice di fare uso di psicofarmaci senza prescrizione medica. Quando gli dico che tipo di psicofarmaci, mi dice sono psicofarmaci per dormire. Il che non vuol dire che li prendono necessariamente per dormire, ma il che vuol dire che sono, e noi sappiamo che sono quelli più diffusi e che probabilmente li mischiano con altre sostanze tipo l'alcol per avere degli effetti differenti da quelli prescrittibili per lo psicofarmaco. Emiliano Mariotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Con i messaggi Walter scrive: qui a Trieste non vedo più arrivare i grossi traghetti della turca UND che collegavano la città con Smirne. Se i traffici sono sospesi, quanto può resistere la Turchia? Questa è la domanda di Walter. Invece Carla dice: il fatto che non esistano dittatrici donne la dice lunga, scrive. From a young age my parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life. E con la voce di Melania Knaus, oppure Melania Trump, moglie di Trump, torniamo sulla convention repubblicana Cleveland negli Stati Uniti, che ha dato l'investitura ufficiale a Trump come candidato repubblicano alla Casa Bianca. 1725 i delegati che lo hanno votato, anche più di quelli che erano necessari. Trump sinora è apparso solo in video, ma forse stasera, nella terza giornata, dovrebbe apparire. Tra l'altro una convention questa che è stata inaugurata proprio dalla moglie Melania, il cui discorso ha fatto molto discutere perché è accusata di aver plagiato un discorso di Michelle Obama. Poi oggi è spuntata l'autrice di questo discorso scritto per Melania, che ha detto: sì, è la mia responsabilità, mi dimetto, ma non sono state accettate le sue dimissioni. Poi c'è stata la sfilata nella seconda giornata del resto della famiglia sul palco, e oggi dovrebbe essere il giorno di Mike Pence, il candidato vicepresidente. E lo chiediamo a Marco Valsania, che è proprio lì a Cleveland, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti. Marco. Sì, questa di oggi, di stasera, sarà la prima giornata di presentazione del ticket repubblicano vero e proprio, con appunto con Mike Pence che salirà sul palco e appunto in anteprima prima di Donald Trump, che verrà invece poi coronato e terrà il suo discorso domani. Ecco, Mike Pence dovrebbe cominciare a cercare, provare a spostare il tiro della convention più sul così sull'ottimismo di una vittoria del ticket rispetto a quello che finora ha caratterizzato la convention, e cioè di fatto gli attacchi, gli assalti alla rivale democratica Hillary Clinton, il cui nome finora è stato sempre accolto da qualunque oratore lo pronunciasse, la grida lock her up, no? Sbattetela in prigione da parte dei delegati poco cortesi repubblicani. Addirittura mi pare che un consigliere di Donald Trump abbia detto, imbarazzando un po' tutti, sarebbe da fucilare Hillary Clinton per tradimento, per la questione sempre esatto, delle mail. Esatto, diciamo, siccome la pena di morte è particolarmente popolare auge in questo momento, diciamo, sì. Delegati sicuramente non fanno, ecco, tra il carcere e la fucilazione probabilmente, diciamo, non fanno molta differenza, ecco. Quindi ecco, Pence dovrebbe in qualche modo cercare di alzare il tono politico della convention, rimarrà da vedere se ci riuscirà davvero. Pence è un candidato a sua volta, candidato alla vicepresidenza, a sua volta abbastanza controverso, è tranquillo nei toni, ben educato, così del Midwest, non alza la voce, ma le sue parole sono spesso pesanti, lo sono state in passato. Come governatore dell'Indiana ha promosso leggi molto dure, molto estreme contro il diritto d'aborto, contro i matrimoni gay, i diritti degli omosessuali, tanto da irritare pesantemente anche molti repubblicani, anche molte aziende controllate dai repubblicani, che ad un certo punto avevano anche boicottato il suo stato, progetti di espansione nel suo stato. E nonostante questo, Marco, conservatore doc. Un'ascesa finora inarrestabile, bisogna dire, di Trump. Vedremo un po' come prosegue adesso nella corsa con Hillary. Sicuramente ha conquistato il partito repubblicano a questo punto, pur tra le polemiche. Bisognerà vedere a questo punto, poi finita la convention, come prosegue la corsa, la conquista rispetto all'opinione pubblica in generale. Grazie Marco Valsania, buon divertimento a Cleveland allora. Ciao Marco, noi ci risentiamo alle 22.